Abbiamo parlato molto nella Hasidut di Chokhmah come la prima delle Sefirot, il primo livello della Ishtalshelut. Ishtalshelut, questa catena che va dall'alto verso il basso e che va nascondendo, contraendo, facendo una contrazione della luce divina, finché questa può essere a un livello così basso, tra virgolette, da poter creare una realtà così limitata e nella quale è così celata la presenza di HaKadosh Baruch Hu. Tutto parte da quello che noi chiamiamo Chokhmah. Chokhmah, appunto, si traduce con saggezza, ma non rende l'idea di quello che stiamo cercando di dire qui, perché è proprio Chokhmah la prima di queste sefirot, di questi livelli. Allora, qui possiamo fare un po' di considerazioni nel capitolo di oggi che riguardano dei temi molto generali che ci aiuteranno a capire moltissimi aspetti di Hasidut e di Kabbalah in generale. Quando noi parliamo di Hishtalshelut, dobbiamo fare delle metafore per capire di cosa stiamo parlando e trarre dei paragoni. Da dove vogliamo trarre dei paragoni? Molto spesso la Kabbalah, ma anche e soprattutto la Hasidut in maniera ancora più chiara, usa delle metafore dal mondo umano. Questa è già una cosa allusa dal re Salomone. Shlomo HaMelech dice: Mi besari echezeh Eloka, dalla mia stessa carne posso intravedere il divino. E cioè, questo è un riferimento in maniera allusiva a quanto c'è scritto all'inizio della creazione dell'uomo. Cosa c'è scritto? Su quale stampo è creato l'uomo? Naase Adam betzalmenu kidmuteinu. Kadosh Baruch Hu dice che l'uomo è creato in immagine, in somiglianza del divino. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una certa struttura e questa struttura nel divino è rispecchiata nella creazione dell'uomo. Se parlassimo del divino agli alti livelli, ai livelli infiniti, ai livelli in cui Or En Sof, luce senza fine, allora è chiaro che questo non si rispecchia nell'essere umano che è un essere invece limitato. Quando si dice che l'uomo è creato in immagine del divino, la Hasidut spiega, questo vuol dire la struttura delle 10 Sefirot, la struttura della Hishtalshelut, di questa catena di 10 Sefirot. Cioè, la maniera in cui HaKadosh Baruch Hu, per così dire, si limita, diventa anche il prototipo secondo il quale la struttura umana viene in esistenza. Di conseguenza, visto che noi siamo qui e vediamo le cose dal basso verso l'alto, noi dal basso cerchiamo di alzare gli occhi e salire, cercare di capire qualcosa, non abbiamo il vantaggio di poter vedere le cose dall'alto. E poi è tutto chiaro, perché se tu ti trovi nella valle, devi salire sul monte, devi cercare, devi trovare qual è la via, qual è quella giusta, magari ne provi una, e poi arrivi in un luogo in cui non si può più passare, devi tornare indietro, devi rifare la strada, rintracciare i tuoi passi, eccetera, eccetera, finché con tanta fatica, con tanta difficoltà, piano piano sali. Quello che si trova in alto, se ci fosse qualcuno dall'alto che ti potrebbe dire, guarda, vai a destra, vai a sinistra, e fa tutto quanto è facile, perché? Perché ovviamente lo vede da sopra. Come si racconta di quello che voleva fare una scalata, la scalata più difficile del mondo, si era preso l'impegno da quando era giovane, si era preparato per tanti anni, ha fatto tante scalate meno importanti, finché ha conquistato tante vette, eccetera, eccetera. Arrivato il momento, quando ormai aveva 30-35 anni, di fare la scalata per la quale tutta la sua vita era dedicata a prepararsi per quello. Nessuno l'aveva mai fatta prima, sarebbe stato il primo. E finalmente, dopo tanti mesi di difficile impegno, arriva sopra in cima a questo grande monte. E c'è lì qualcuno che gli dice: Ah, benvenuto. Ma questo qualcuno era un bambino piccolo. E lui quasi si è suicidato dalla... ha detto, ma com'è possibile? Che tu sei qui, io sono 30 anni che sto lavorando per arrivare qui. Ho dedicato tutta la mia vita, tutte le mie forze. Dice, sì, ma io ci sono nato. Ci sono nato. Allora chi ci è nato ha un'altra prospettiva. Dall'alto si può vedere verso il basso molto più facilmente. Noi non abbiamo questa prospettiva. La nostra Neshama, molto nascosta dentro di noi, ce l'ha, però nella nostra psiche umana non abbiamo questa prospettiva, quindi dobbiamo scavare fuori dal nostro buco e cercare di arrivare, di arrivare. Per questo motivo la Chassidut ci insegna la struttura umana così come noi facciamo l'esperienza, non dal punto di vista necessariamente scientifico. Non è che bisogna entrare nel DNA di ogni cosa a livello scientifico. Nella nostra esperienza, il modo che noi viviamo le nostre facoltà, le nostre emozioni, il nostro intelletto, le varie strutture che fanno sì che questo sia un essere umano, può diventare una metafora per capire come le cose funzionano a livello spirituale, nel divino, come HaKadosh Baruch Hu si limita nella Ishtal Shelut, nelle 10 Sefirot. E di conseguenza, quando parliamo delle Sefirot in generale, quindi della Ishtal Shelut in generale, stiamo parlando di, come dicevo già, limitazione, limitare. Il primo luogo in cui si esprime il concetto di limitare è nella Chochmah. Per capire questa frase, facciamo la metafora dell'essere umano. Nell'essere umano ci sono tante facoltà. Una delle più forti, uno degli diciamo, attributi o Caratteristiche. comunque caratteristiche, adesso non so se è la parola esatta, però sentite di cosa sto parlando. Una delle forze più forti della persona è il volere. Il volere è la volontà, non so se è un attributo o una caratteristica, è proprio una... Desiderio. No, è la volontà, la forza della volontà, ok? La forza della volontà non è limitata a un specifico membro del corpo. Non è che la forza della volontà risiede nella mano o nella testa o nel naso o nel piede. È una cosa generica, generale. Ok? Dove invece troviamo la prima facoltà che è legata a una parte specifica del corpo è quella che noi chiamiamo Chokhmah, intelletto. La sede dell'intelletto è nel cervello, nella mente. È limitato lì. La forza della volontà invece trascende la Chokhmah. Non che non si sa, sta dappertutto. Sta e non sta dappertutto. Ok? È vero che lo si sente più nella mente, perché la mente è più, diciamo, sintonizzato sulle subdole, sugli aspetti subdoli del corpo, più fini, più raffinati, perché è una parte del corpo molto più raffinata, il cervello, ok? Quindi ovviamente si sente di più, però la forza della la volontà di per sé non è che risiede nella mente, nell'esperienza dell'essere umano. Quando una persona vuole muovere qualsiasi parte del suo corpo, mano, piede, si muove. Dipende da cosa? Dal fatto che lui vuole muoverlo. Ok? Allora, non è che c'è, e nella nostra esperienza umana non c'è un'attesa che deve arrivare dal momento in cui lo vuoi fare finché effettivamente si mette in atto. Si fa. Cosa che, se invece volessimo muoverci in un determinato modo per il quale ci dobbiamo allenare, come in una danza complicata o in una marcia fatta in un modo particolare, eccetera, c'è bisogno di investire la mente, c'è bisogno di applicare, di ripetere, di abituarsi, perché lì tu stai cercando di legare la chokhmah, l'aspetto intellettuale, all'aspetto motorio. Ok? E allora lì ci vuole un impegno. E ci vuole del tempo, non è una cosa scontata. Perché? Qual è la differenza? Nel linguaggio della Hasidut, il primo esempio, quello della forza della volontà che pervade e trascende tutto, è considerata, tra virgolette, una luce generale. Si usa il termine circonda. Circonda vuol dire trascende i limiti specifici. È ugualmente presente dappertutto. Mentre invece il voler specificare il movimento, in questo caso usiamo questo esempio, in maniera specifica, questo si chiama una luce interna, cioè limitata a una determinata modalità. La prima fase della luce interna, cioè limitarsi a una determinata modalità, si chiama Chokhmah. È da lì che inizia questo limite, questa possibilità di entrare in uno specifico. Prego. Abbiamo già detto che infatti è come quando parliamo di un progetto, una costruzione, c'è un'idea di massima e poi, come Sì. dire, l'idea ce l'ho e arrivi C'è al l'ingegnere che c'è. dettaglio Sì. specifico. Abbiamo detto sempre Vero, abbiamo fatto anche questa metafora, questa l'idea metafora. generale e poi lo Lo specifico di specifico. entrare. Sì. Esatto. Bravo. Ora, è vero che la prima fase si chiama Chokhmah, però la Chassidut, la Kabbalah ci insegna che ci sono tre fasi nell'intelletto. Chokhmah, Binah e Da'at. Allora, Ancora che dici tu. sì. Chokhmah, Binah e Da'at. E poi seguiranno dopo Chokhmah, Binah e Da'at le emozioni, i sentimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire la Chokhmah in generale è un primo stadio, un primo seme. In realtà si può paragonare Chokhmah a un seme, che il seme dovrà essere poi sviluppato. Binah è la fase di sviluppo totale della Chokhmah, cioè l'idea che è un seme che viene a svilupparsi con tutti gli aspetti che sono necessari per far sì che abbia un senso, che sia possibile spiegarlo, che sia possibile trasmettere l'idea. Da'at, che è la terza fase dell'intelletto, in realtà non aggiunge qualcosa alla comprensione. A differenza di quanto si potrebbe capire dal nome Da'at, che vuol dire conoscenza, in realtà è più di conoscenza, è più consapevolezza, è più un'applicazione Fare gli dell'idea, saper fare, esattamente. del Vuol dire tu dettaglio, potresti, il dettaglio. no, il dettaglio già è sviluppato Ah, nella già il Binah, non è dettaglio. solamente il dettaglio. A livello Dettaglio. accademico, a Binah, lo stadio di Binah abbiamo tutto. A livello accademico, a livello Sì. tecnico, tutti i dettagli sono già È presenti. un'applicazione pratica, Dante. L'applicazione pratica vuol dire tu potresti avere tutte le conoscenze ma non sapere applicarle. Rimane una teoria. Da'at è il ponte tra la teoria e la pratica. Ok? Quindi non è che manca il dettaglio. Il dettaglio No, c'è. dettaglio nel senso i tempi, i modi, tipo il cronoprogramma di quello che già sai che Ok, come si fa. può darsi. Questo, Ok, no, io può lo sto darsi. portando purtroppo una metafora pratica. Il sì, Saper, no, ma però. bisogna portare una metafora pratica. Tu dici il cronometro Hai di. il progetto, sei tutto come si fa. Ti manca saperlo, per questo stadio però hai bisogno di farlo. Entro questo tempo, con queste modalità, cioè È come una i mezzi. ricetta di cucina, Questo. sai tutti gli ingredienti, devi farlo, I mezzi. cucina. Sì, ma devi Questo è già sapere più usare di Da'at. strumenti anche. Questo è già più di Da'at. Tu sei già avanti. Per fare Ah, questo già hai Da'at. ok. E può esistere una teoria astratta. Io faccio un esempio estremamente semplice. Il sentimento in generale è diviso in due. Volere di avvicinarsi o volere di allontanarsi. Dal primo derivano amore, affetto, apertura, eccetera, eccetera. Dal secondo arriva timore, allontanamento, chiusura, eccetera, eccetera. Sono due capostipiti dei sentimenti che noi chiamiamo nel linguaggio della Kabbalah Chesed e Gevurah. Per arrivare verso l'avvicinamento verso qualcosa o l'allontanamento da qualcosa, prima c'è una comprensione di che cosa è quella cosa. Se ha senso avvicinarsi o se ha senso allontanarsi. Allora, Se tu approfondisci le qualità di una determinata idea o anche una determinata cosa o una determinata persona, ok? E nella tua mente, nella tua chokhmah, nella tua binah, si forma un'idea secondo la quale avrebbe senso sposare quell'idea o avvicinarsi a quella persona, volerla bene. Qual è la prossima fase logica? Dat vuol dire questo ha senso e di conseguenza ha un effetto su di me come persona, non solo come comprensione fredda nella mente. Questa persona ora vedo che è intelligente, fa le cose in maniera pensata, eccetera, eccetera. Allora voglio avvicinarmi a quella persona. Quella fase, vorrei avvicinarmi a quella persona, questa è dat. Perché ci sto io e ci sta lui. Vorrei avvicinarmi a quella persona. Se un'idea rimane astratta, non c'è il mi, non ci sono io. È solo un'idea. È un'idea che non ha nulla a che vedere con me. Cioè, come diceva William, io studio una formula matematica molto complessa in università e approfondisco come funziona questa formula matematica. C'è uno studente che si innamora della formula e dice, questo a me piace, io vorrei proseguire in questo campo perché mi ci ritrovo. Un altro potrebbe invece capire benissimo perché ha approfondito, ha applicato la mente, ha faticato e ha capito il senso della formula, ma non parla a lui personalmente. Per lui rimane una cosa astratta, riesce a prendere 30 sull'esame perché l'ha capito bene, ma poi rimane lì. Non ha nulla a che vedere con me, con la mia vita personale. Cosa manca qui? Da'at. Come manca da'at? Ha preso 30. Sì, ha preso 30. C'è tutto, a livello accademico c'è tutto, ma lui non ci sta. Non ha niente a che vedere con la sua vita personale. Questo vuol dire da'at, il legame personale con la cosa. Quando c'è da'at, c'è il legame, c'è ponte, allora c'è ohesed o gevurah, c'è qualche tipo di sentimento. Chiedo una cosa, poi se mai mi rispondi alla fine, se non è evidente. Sì. Diciamo che io e Tony abbiamo le stesse informazioni di una cosa, no? Mm-hmm. Ok? Poi però, nell'applicazione, il mio dat e il suo sono differenti. Okay. Io faccio un modulo e un altro. Benissimo. Da dove dipende il fatto che io ho un'applicazione diversa dalla sua? No, da dove nasce il fatto... Sì, ma perché è diverso se ho le stesse informazioni? La tua personalità è diversa. Può essere diverso? Ok, è un'ottima osservazione. È un'ottima osservazione. E in realtà nella introduzione del Tanya si fa riferimento a questa cosa. Si fa riferimento proprio a questa cosa qui, che si hanno le stesse informazioni e il sentimento che ne fuoriesce può essere diverso. Che vuol dire? Dice come Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai e Bet Hillel sono delle yeshivot dove si studia la stessa Torah, non è mai sia un'altra Torah. Però loro arrivano ad una conclusione e l'altro gruppo arriva ad un'altra conclusione. Dice perché? Dice perché anche nella struttura caratteriale della persona, già geneticamente e spiritualmente, può prevalere una parte rispetto all'altra quando parliamo di Chesed e di Gevurah. Quindi gli studenti che erano attratti dalla casa di studio di Hillel erano quelli nei quali la maggior parte di loro prevaleva l'aspetto Chesed. Ecco perché la casa di Hillel è sempre più portata ad alleggerire la sentenza alachica. Mentre invece quelli attratti dalla casa di studio di Shammai erano, come Shammai stesso, più prevaleva in loro più l'aspetto di Gevurah, di rigore, e di conseguenza erano più portati ad essere più attenti e più sicuri andando su una decisione più rigorosa. Quindi si basa anche sulla Neshama, che può essere legata già dall'origine, prevalere più da una parte verso l'altra. Quindi non è solamente le informazioni, ma anche c'è qualcosa della struttura della persona stessa nel suo carattere. Non ha a che fare proprio in questa gradazione libero arbitrio? In che senso? Non è proprio questo, cioè? È un'altra cosa. Dimmi. Cioè, il libero arbitrio, siccome abbiamo detto, grandissima parte abbiamo appunto le regole, le istruzioni per comportarci, altrimenti rientriamo nel campo della follia. Certo. Il libero arbitrio è anche il come certe volte interpreti o fa determinate cose più con Hesed o con Gevurah. Beh, sicuramente, sì. Quando devi esercitare il tuo libero arbitrio è chiaro che devi decidere gli strumenti. Il libero arbitrio non è anche la modalità con cui esatto. Fai e ti distingui da una persona rispetto a un'altra. Sì, quando noi diciamo Hesed e Gevurah è semplicemente un altro modo di dire comportamento esatto. In un modo e in un altro. Esatto. Però nel momento in cui scegli forse... interiormente ha già fatto, si è già espressa la diversità di poco fa. Sì, ma anche lo fai, lo puoi fare poi per mille modi, dipende se lo fai con Keset, con Gevurah, che disinteressa. Per la differenza. Però dipende come dice lui, dipende è vero, dalla tua natura. È vero, cioè, la tua natura. Qual è l'elemento? Molte cose dipendono dalla natura. Della tua ok, quello che vorremmo qui approfondire in questi capitoli è proprio la differenza tra l'aspetto che trascende, come nell'essere umano abbiamo detto la forza della volontà, che è una cosa un po' così astratta, generale, non specificata a un comportamento particolare o a una parte del corpo specifica, eccetera, e invece gli attributi, le caratteristiche che sono più specifiche, più mirate e più contenute e quindi più limitate in realtà. Questa stessa metafora, quindi, di una forza nella persona che è trascendente e invece una forza che è contenuta da un contenitore, tra virgolette, specifico, quindi più limitata, possiamo usare questa metafora per capire cosa vuol dire nei mondi superiori il concetto di Ishtalshelut, 10 Sefirot. 10 Sefirot vuol dire che HaKadosh Baruch Hu fa in qualche maniera vestire la sua luce, la sua illuminazione, in dei contenitori, tra virgolette, specifici. La Kabbalah usa il termine contenitori, che può essere fuorviante, perché ti fa venire in mente luci e contenitori, ti fa venire in mente, non lo so, delle lampadine all'interno delle... È una metafora, che contenitori vuol dire limite. Ma non solo limite, vuol dire limite di un determinato tipo, perché se sono 10 contenitori, che differenza c'è tra uno e l'altro? È come se noi dicessimo, per esempio, abbiamo un'unica luce che illumina attraverso 10 finestre diverse, ognuna ha un vetro di un colore diverso. La luce è la stessa, se è la luce del sole, per esempio, è sempre la luce del sole. Solamente che quando ti trovi in questa stanza dove la finestra ha una tinta azzurra, ti sembra una luce azzurra. Quando hai alla finestra una tinta verde, ti sembra una tinta verde. Questo vuol dire il contenitore cambia, ma la luce rimane la stessa. Ma il contenitore in questo contesto ha un effetto vero e proprio su quella luce. In altre parole, da chi ha l'esperienza da questa parte della finestra, cambia. Se è un'esperienza blu o un'esperienza verde, cambia per te. Per chi manda la luce non cambia nulla. Ok? Vuol dire per HaKadosh Baruch Hu che fa emanare tutti questi vari livelli, per lui non c'è nessun limite, lui è quello che manda la luce. Scusa, ma Einstein l'ha letto sto pezzo? Può darsi. Perché è proprio questo. Invece dal nostro punto di vista la cosa cambia completamente, cambia totalmente la nostra esperienza. Quindi questa è la differenza, cosa vuol dire contenitori, orot vekelim, luci e contenitori, questa è una delle metafore che ci aiuta a capire il concetto di Ishtalshelut, che HaKadosh Baruch Hu si vuole dimostrarsi, tra virgolette, o nascondersi al mondo attraverso queste varie modalità, attraverso queste varie maniere che vanno a comporre il concetto della Ishtalshelut, di questa catena delle 10 Sefirot, partendo da Chochmah, che è la prima, per questo Chochmah si chiama Reshit, l'inizio, c'è scritto anche in un versetto Reshit Chochmah, Irat Hashem, Reshit Chochmah, la Chochmah viene legata a Reshit, Rosh, all'inizio, e da lì poi arriviamo a Binah, perché come abbiamo detto, Chochmah non è l'applicazione ancora, l'applicazione. Chochmah è come il seme, e Binah è lo sviluppo di questo seme, infatti Binah si chiama nella Kabbalah madre, cioè come se fosse la metafora dell'utero in cui il seme si sviluppa fino a diventare un vero e proprio essere umano, alla fine. E da lì poi, attraverso il ponte del Da'at, si arriva all'esternamento del pensiero che diventa un'emozione, un sentimento. Qual è la differenza tra l'intelletto e il sentimento? Che l'intelletto è solo a sé. Il sentimento coinvolge un'altra persona, cioè è esterno a sé. Okay? Quindi è tutta una fase porta all'altra. Questo per quanto riguarda la Ishtal Shelut, cioè come HaKadosh Baruch Hu vuole limitare la sua luce a queste 10 Sefirot per poi portare all'altro, che sarebbe la creazione. Ok? Ma HaKadosh Baruch Hu non è limitato a questo. C'è sempre la sua luce infinita che è appunto trascendente. Trascende queste specificazioni, questi limiti, questa Ishtal Shelut, queste Sefirot. Che va oltre le Sefirot. Va oltre. Non è limitata a questo. E questo si chiama nella Kabbalah la luce circondante, makif, vuol dire non nel senso, non dobbiamo pensare a dei cerchi, ma semplicemente qualcosa che, cos'è un cerchio? Che non ha né fine né inizio, dovunque lo prendi, un'aurea, è come un'aurea, bene, dimmi. No, niente, immagino la luce, parte, prende, non finisce più. Coinvolge tutto, esattamente, cioè non si coinvolge nei limiti delle cose che illumina. Se ci sono o non ci sono, potremmo dire non fa differenza, pervade tutto quanto. La fisica si chiama. Tornando a quanto dicevamo nei capitoli precedenti, ora possiamo capire un po' meglio. Perché abbiamo detto che seguendo tutto il regime, l'ordine, il limite dell'ordine dell'Ishtal Shelut, dei limiti, allora lì tutto è calcolato. Torniamo a quel calcolo, Heshbon, di cui parlavamo. Tutto è esatto. Da Chochmah, a Binah, Da'at, attraverso i vari livelli, finché si arriva alla creazione, c'è un regolamento e una regolazione, un regolare di quel flusso. Manca uno, non funziona. Esatto, mentre invece, cioè se parliamo dei contenitori per così dire, ok, che sono appunto i limiti, le maniere in cui si manifesta quella luce, allora il contenitore, se a un certo momento la finestra è totalmente sporcata, la luce non passa più, è normale, vuol dire ci sono delle condizioni, per via del semplice fatto che stiamo parlando di limiti, stiamo parlando di una certa struttura, allora è chiaro che la struttura deve funzionare per poter far passare quel flusso, per così dire. Nel momento in cui c'è un inceppo da qualche parte, c'è una vite che non funziona, una guarnizione che va cambiata, o un vetro che è offuscato, allora c'è un problema. Qual è l'aspetto chiave che fa sì che il contenitore sia considerato idoneo a far trasmettere la luce, a ricevere la luce o il flusso? La chiave si chiama bitul. Bitul vuol dire annullamento. Annullamento di sé. Finché uno riconosce di essere un ricevitore, quindi io non ho, io sono vuoto, io devo ricevere, quindi mi annullo ad HaKadosh Baruch Hu, su tutti i livelli, a livello umano, ma anche in tutti i sensi, allora la luce si può posare. Questa è la chiave, questo è quello che fa sì che il contenitore sia idoneo a ricevere il flusso. Il bitul, l'annullamento, l'annullarsi. Per questo c'è scritto che il luogo in cui, in tutte le 10 Sefirot, quello nel quale la luce divina si rivela di più in assoluto rispetto a tutte le altre Sefirot, è la Sefirah della Chochmah, la prima. Perché? Perché Chochmah per definizione è annullamento totale. Se voi guardate la parola Chochmah, cambiamo la composizione delle lettere, l'ordine solamente, ma le stesse lettere, leggiamo, no, non cambiamo, scusate, proprio anche nell'ordine, ma solo dividiamo in due parole. Koach, ma. Koach vuol dire un potere, una facoltà, ma. Ma vuol dire cosa? Vuol dire nulla in realtà. Quando gli ebrei in uno dei momenti si lamentarono con Mosè e Aaron, hanno detto voi qui, Mosè ha detto noi non abbiamo deciso niente, tutto a Kadosh Baruch Hu, e ha usato il termine ma, ha detto venachnu ma, e noi cosa siamo? Venachnu ma vuol dire e noi non siamo nulla. Il ma, il cosa, come domanda aperta vuol dire non c'è nulla da definire, c'è solo annullamento. C'è solo umiltà. Chokhmah è annullamento totale, perché la persona per accedere anche alla propria Chokhmah si deve mettere completamente da parte. È come deve essere vuoto. Deve essere vuoto. Ma innanzitutto se uno vuole acquisire qualche saggezza, vuole andare alla lezione di Einstein e capire qualcosa, cosa deve fare? Deve mettere da parte tutti i suoi preconcetti. Non può venire alla lezione e dire ok, io so questo, questo, questo e quell'altro, tu cosa mi dai, cosa mi aggiungi? Sei già pieno, non puoi contenere qualcosa adesso, sei troppo pieno di te e delle tue conoscenze. Quando arrivi alla lezione, dici ok, tutto quello che sapevo finora lo metto da parte. Lo metto da parte. Quando non lo metti da parte, disturbi anche a te stesso per sentire la più minima elementare cosa che ti viene detta. Perché? Perché mentre senti la prima parola che ti viene trasmessa, già dici, ah, ma è come quell'altra cosa che so, ah, ma è simile a questo, ah, ma forse vuol dire così. Aspetta, neanche hai sentito la frase. Quello che faccio io. Ecco. Ma lo facciamo tutti molto spesso in molte occasioni, non dico solo una lezione, in una conversazione. Cosa vuol dire? Tu hai una conversazione con uno, quello cerca di dirti qualcosa, tu subito hai una reazione, ma senti quello che ti dice, forse è un'altra cosa, comunque forse una cosa nuova, comunque, a parte le buone maniere, lascialo parlare, però dico proprio a livello di poter acquisire qualcosa che prima non avevi. Il massimo della ricezione del... È solamente quando ti metti da parte, quando sei vuoto. Infatti il Talmud, il Midrash dice che lì Reikan Mahazik. Una cosa molto semplice, un vuoto può contenere, un pieno non può contenere, ok? Allora, legge base della fisica, no? La Chokhmah vuol dire creare in sé un vuoto per poter trovare qualcosa di nuovo, o che ti viene trasmesso dall'esterno di te, ma anche dall'interno di te. Se devi arrivare alla soluzione di un problema, a volte non è necessario, anzi è controproducente, entrare nel problema stesso. Bisogna metterlo da parte, svuotare la mente e dare spazio alla possibilità di una nuova idea che potrà risolvere poi anche quel problema. Che il saggio per questo, che non dice mai niente. Per questo abbiamo bisogno a volte di un silenzio nella mente. Scusa, qual è la risposta? Aspetta, devo pensare. Poi in questo pensiero non necessariamente c'è una struttura logica specifica, allora adesso penso a A, poi penso a B e poi verrà fuori C. Non funziona così. È dal silenzio stesso che potrebbe venire fuori la soluzione. Questo silenzio possiamo chiamarlo nell'esperienza umana bitul, annullamento di sé. E HaKadosh Baruch Hu si posa laddove c'è bitul. E per questo nella Gemara c'è scritto riguardo chi è presuntuoso, en ani vehu yecholim ladur, io e lui non possiamo convivere, coabitare. Cioè Kadosh Baruch Hu si trova dappertutto meno che dove c'è la presunzione. Cosa vuol dire la presunzione? Vuol dire ci sono io, se ci sono io non ci sei te, o uno o l'altro è già pieno. Allora, e nel Tanya c'è scritto in maniera molto chiara, nel capitolo 6, la presenza di HaKadosh Baruch Hu è sempre presente, è sempre prevade, però quando parliamo di una presenza specifica, è solamente laddove c'è il Bitul. E quindi in tutta la Kedushah, dove c'è il Bitul, è lì che si posa la presenza specifica di HaKadosh Baruch Hu. E quindi quando parliamo dell'ordine dell'Ishtal Shelut, tutto dipende da questi... da queste regole, da questo calcolo, e di conseguenza il flusso è in base a dei regolamenti molto rigidi che fanno parte della Ishtal Shelut, di questi contenitori, di questo scambio e di questo bitul. Nel momento in cui c'è qualcosa che si sente distinto. Presunzione cosa vuol dire? Vuol dire io sono io, non ho bisogno di te. C'è anche la presunzione subdola, no? Semplicemente sentirsi indipendente, sentirsi, anche se non si sente importante, ma già se si sente indipendente, già non è più bitul, non è più l'annullamento del proprio io, allora il flusso di esistenza che riceve non è più un flusso diretto, perché il flusso diretto viene solo dove c'è il bitul. Dove manca il bitul? Dove c'è il sentimento di indipendenza? Io sono io, allora non sei in contatto diretto. E di conseguenza potrebbe esserci un flusso maggiore. Questo è il paradosso di cui parlavamo le altre volte. Che chi non si sottomette alla volontà di HaKadosh Baruch Hu sembra che gli va meglio di chi si sottomette alla volontà di HaKadosh Baruch Hu. Perché? Perché in qualche maniera trascende le regole. Allora è come se vivesse direttamente dal flusso illimitato, quello che tra virgolette circonda. Ecco che questa abbiamo spiegato un po' la struttura interna di quanto dicevamo le altre volte. E la prossima volta approfondiamo ulteriormente. Quindi i 10 sefirot sono degli strumenti e degli elementi specifici che noi chiamiamo interiori. Interiori vuol dire la luce e il contenitore diventano una cosa. Limite. Sono strumenti specifici, limitati. Filtri, strumenti, contenitori, tante metafore possiamo usare. La prima è quella della Chochmah, dove c'è il bitul assoluto. Assoluto annullamento di sé. E quindi tutto il Cheshbon è in base al bitul. Più bitul, più Cheshbon. Più si calcola il flusso, meno bitul e meno si calcola. Man mano che scende aumenta... E tutto questo è solo nell'ordine dell'Ishtal Shelut.